Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini incrociati sbarca a Berlino. È il 9 luglio del 2006. Alle 20, all'Olympiastadion, si gioca la finale del campionato del mondo di calcio. Italia-Francia. È il 9 di luglio del 2006. È l'Olympiastadion di Berlino. È Italia-Francia. È la finale. Un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La Francia cerca il suo secondo titolo mondiale, dopo quello ottenuto nel 1998 davanti al proprio pubblico. Allora come oggi, a guidare i transalpini, un giocatore dalla classe immensa e dal carisma smisurato. È uno dei migliori numeri 10 di tutti i tempi. Una bandiera, insomma, che ha deciso di chiudere la sua straordinaria carriera subito dopo la finale di Berlino. Signori e signore, Zinedine Zidane. Tempo fa avevo già deciso di non giocare più in nazionale. Ci ho ripensato, visto che ultimamente sto giocando bene nel Real. A luglio però, dopo i mondiali, sarà tutto diverso. Sono 2 anni che non sto bene e non gioco proprio come vorrei. Non ho più 25 anni e non voglio continuare solo per il gusto di rimanere qui. Io scendo in campo per vincere e voglio chiudere la stagione portando il Real in testa e la nazionale a conquistare il mondiale. La Francia farà molto bene. Così Zizou qualche mese prima della finale. Ora sta entrando in campo, si gode le urla dei tifosi e respira il profumo dell'erba. È l'ultimo viaggio nel calcio che conta e il campionissimo francese vuole viverlo nel migliore dei modi, l'unico che conosca, vincere. Vuole il titolo mondiale, il pallone d'oro, la leggenda. La Marsigliese fu composta da Claude-Joseph Roger de la Lille, un generale dell'armata d'Egitto, François Muret, recatosi a Marsiglia per mettere a punto la marcia per i volontari di Montpellier e Marsiglia, l'adotta come canto di guerra per l'armata della frontiera. E canto fa il suo ingresso a Parigi con la truppa marsigliese, diventa la Marsigliese. Sulle note dell'inno francese, sicuramente, davanti agli occhi di Zizou passa tutta la sua carriera, tutta la sua vita. Da quei primi calci al pallone per le strade dei rioni poveri di Marsiglia, fino ai successi con la Juventus e il Real Madrid. E allora, scopriamo anche noi chi è Zinedine Zidane. Zinedine Yazid Zidane nasce a Marsiglia il 23 giugno del 1972, nel quartiere Le Castellon, una delle banlieue della città. La sua famiglia è algerina. Suo padre viene dalla Kabilia, una delle regioni settentrionali dello stato nordafricano. Smail Zidane, questo il nome del padre, è arrivato insieme ad altri lavoratori e profughi durante la guerra dei primi anni 60 e ha 5 figli. Zinedine è uno di loro. Per lui il calcio, tra i rioni poveri e difficili delle periferie marsigliesi, è una forma di riscatto sociale, un sistema di integrazione. Alle discriminazioni dei borghesi coetanei francesi, Zizou risponde con straordinarie magie, colpi di tacco, tunnel irrisori. Tutti numeri che fanno subito intuire come sia un predestinato. Ho iniziato a giocare nelle strade, con gli amici. Non era un contesto facile. Sono poi entrato nella squadra del quartiere. Ero giovanissimo, il calcio era un divertimento, qualcosa di spensierato. A 14 anni Zizou passa al Cannes. La sua trafila nelle giovanili è brevissima. Zinedine ha imparato nelle strade polverose di La Castellane che è meglio imparare in fretta e cavarsela da soli. Così a 17 anni il suo club lo butta nella mischia in prima divisione contro il Nantes. Roba da far tremare le gambe. Quelle di Zizou non tremano, ma danzano ubriacando di finte velenose gli avversari. Sempre contro il Nantes, un anno dopo arriva il primo gol. Nel 1992 Zizou viene acquistato dal Bordeaux per una somma consistente. Il suo talento è esploso, elegante, illuminante, aggraziato. Zidane comincia a essere conosciuto da quella stessa nazione di cui a Marsiglia aveva imparato a diffidare. Con il Bordeaux ho vissuto una delle migliori esperienze della mia carriera. Ho stretto un profondo legame d'amicizia con Diougari e Lizarazu, che poi sono diventati miei compagni di nazionale. Sono rimasto 5 stagioni, che ricordo ancora con grandissimo piacere. Insieme a Dugarry e Elisa Razou, Zidane nel 1996 lascia Bordeaux. La sua nuova destinazione è la Juventus. Con la maglia bianconera, Zizou gioca 5 stagioni strepitose. Trascina la Juve per ben 2 volte allo scudetto e 2 volte in finale di Champions League. Ma soprattutto nel 1998 trascina la Francia alla vittoria nella Coppa del Mondo. Nel 2000 realizza un'impresa unica. La sua Francia, già forte del titolo mondiale, sconfigge 2-1 l'Italia nella finale dei campionati europei. La diga difensiva azzurra, composta da Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Fabio Cannavaro, in quella partita si arrende alle magie di Zizou e ai gol del futuro compagno di squadra alla Juventus, David Trezeguet. La Francia è campione d'Europa. Nel 2001 inaugura l'era dei Galacticos. È il primo faraonico acquisto del Real Madrid di Florentino Perez. Dopo di lui, David Beckham, Luis Figo, Ronaldo. Con la camiseta blanca vincerà tutto. Una Champions League, una Coppa del Mondo per club, un campionato spagnolo. Nella finale di Champions League del 2002 realizza un gol incredibile contro il Bayern Leverkusen. Proprio nel 2001 a Marsiglia, i suoi concittadini nella banlieue di La Catellane gli dipingono un ritratto di 15 metri per 10 su un muro di un palazzo. Per milioni di immigrati, Zinedine è un simbolo, l'emblema di un riscatto possibile. Nel 2004, il primo addio alla nazionale, dopo il fallimentare europeo-portoghese. Poi Zizou ci ripensa e nel 2006 accetta di giocarsi l'ultimo mondiale, poi il ritiro. Tutta la Francia è unita in un sentimento di dolore e di speranza. Il dolore per la perdita di uno dei giocatori più rappresentativi di sempre. La speranza che il campione regali ai transalpini un'ultima serata magica. Like a crown, pretend that you're, pretend that you're still around. Ma tra Zidane e la gloria, in quella mite serata berlinese di inizio luglio, c'è l'Italia di Marcello Lippi, assetata di vendetta dopo la delusione europea di 6 anni prima. Squadra solida, che non gioca certo un calcio spettacolare. La nazionale azzurra ha subito un solo gol in tutta la competizione, dagli Stati Uniti nella fase a gironi. Poi la difesa ha chiuso a doppia mandata ogni passaggio, garantendo alla nazionale italiana un percorso roccioso e granitico, come sottolinea lo stesso commissario tecnico. Sicuramente il reparto che ha funzionato meglio in quel mondiale è stata la difesa, fin dalle qualificazioni, con Nesta e Cannavaro, e poi nella fase finale. Tutti sono stati straordinari. Zambrotta, Fabio Grosso, Gigi Buffon. Sicuramente avevamo la difesa migliore del mondiale. I custodi della retroguardia azzurra, subito davanti al grande Gigi Buffon, sono due dei più forti difensori al mondo. Fabio Cannavaro, centrale della Juventus, fisico, reattivo, veloce. Ed Alessandro Nesta, l'erede naturale di Franco Baresi, elegante, tecnico, fortissimo. Nesta però si fa male alla terza partita, un infortunio muscolare. Prende il suo posto Marco Materazzi, stopper dell'Inter. Fino a quel mondiale è un buon giocatore, sempre penalizzato dal temperamento irruente e da un gioco spesso un po' troppo vicino ai limiti del regolamento. Cerchiamo di scoprire insieme chi è Marco Materazzi. Il difensore dell'Inter e della Nazionale nasce a Lecce il 19 agosto del 1973. Il padre Giuseppe allora milita proprio nella squadra salentina e diventerà presto un buon allenatore, attivo anche nella massima serie. Materazzi viene indirizzato da papà Beppe verso il calcio, ma esordisce in Serie A tardi, a 24 anni. La carriera di Materazzi non è quella di un predestinato. Penalizzato da alcuni eccessi comportamentali e da qualche fallo di troppo, non ottiene spesso la giusta considerazione, nonostante riesca a diventare ben presto uno dei difensori più prolifici in fatto di gol nella storia del calcio italiano. Magari ero scarso, qualcuno, mio padre stesso, ha detto che dovevo lasciar perdere, però poi penso quando uno ci mette la passione giusta, con un pizzico di fortuna, come l'ho detto io, penso che alla fine i veri valori vengano fuori. E io mi devo ritenere per forza di cose una persona molto fortunata che però ci ha messo tanto del suo, perché la passione penso vada ogni oltre limite. Nel 2001 si trasferisce all'Inter e diventa subito titolare inamovibile. Sfiora lo scudetto al primo anno, sfuggito nell'infelice sfida del 5 maggio contro la Lazio. Diventa uno dei beniamini dei tifosi e contribuisce alla crescita della squadra nerazzurra. Un pugno dato al giocatore del Siena, Bruno Cirillo, lo costringe però nel 2004 ad una lunga squalifica. Nel 2005-2006, con l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Roberto Mancini, diventa uno dei pilastri della squadra costruita dal nuovo tecnico. Quando nel 2006 Materazzi viene convocato da Marcello Lippi, ha già alle spalle un mondiale, quello nippo-coreano del 2002, e un europeo, quello del 2004, entrambi vissuti come riserva di Nesta e Cannavaro. Nel 2006, quindi, l'infortunio al centrale del Milan sembra aprirgli la grande occasione. Sempre lì. Il cammino di Materazzi fino alla finale è contraddittorio, con Nesta che sembra quasi sempre pronto al rientro, ma poi non ce la fa mai. Nel match contro la Repubblica Ceca, il terzo del girone, quando Marco prende il posto del titolare milanista, va subito in gol e gioca una partita splendida. Negli ottavi di finale però, uno dei soliti eccessi di irruenza lo penalizza e contro l'Australia Materazzi viene espulso. Pur in 10 l'Italia passa e vince nei quarti contro l'Ucraina. Contro la Germania in semifinale, Materazzi torna titolare. Lippi gli ridà fiducia e fa bene. Grande partita di Materazzi insieme a Cannavaro, una vera e propria diga. Padroni di casa sconfitti e biglietto per la finale di Berlino. Si va a Berlino, Beppe! Si va a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino, Beppe! Così nella finale tocca a lui. Lui e Cannavaro hanno il compito di arginare Zidane e compagni. Lui e Cannavaro hanno il compito di incrociare e deviare il destino del grande Zizou. La sfida può iniziare. Destini incrociati. Destini incrociati è a Berlino, all'Olympiastadion, la sera del 9 luglio 2006. Qui si giocano il mondiale di calcio, la Francia di Zinedine Zidane e l'Italia allenata da Marcello Lippi. Alle 20 in punto, l'arbitro, il signor Elizondo, fischia il calcio d'inizio. Dopo sei minuti estremamente equilibrati, Zidane estrae il primo coniglio dal cilindro. Con un colpo di testa, Thierry Henry serve Malouda poco fuori dell'area di rigore. Il francese entra in area superando di slancio Marco Materazzi, che lo stende. L'arbitro non ha dubbi, è rigore. Palla allargata, arriva il colpo di testa di Henry, c'è Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore. Proprio lui, Materazzi, quello che quella finale non avrebbe dovuto giocarla, manda Zidane, il re, sul dischetto. Davanti a Zizou, Gigi Buffon. Su di lui gli occhi di 80.000 spettatori e di 50 milioni di telespettatori. Dentro di lui, la coscienza che potrebbe essere il primo scalino per completare l'ascesa nella leggenda. Zidane però non trema. Freddo prende la rincorsa e calcia. Un po' sfrontatamente, Zizou calcia un cucchiaio, un pallonetto. Come tutti i grandi geni, Zinedine Zidane talvolta è eccessivo, barocco, abnorme. In apparenza calmissimo, spesso il suo comportamento è stato attraversato da lampi di follia, come quando negli ottavi del vittorioso mondiale del 1998, con la Francia in vantaggio 4-0 sull'Arabia Saudita, si era fatto espellere per un inutile fallo di reazione sul saudita Fouad Amin, rischiando di compromettere il successo finale. O come il 24 ottobre 2000, quando con la Juve aveva perso il senno in una partita di Champions League contro l'Amburgo, colpendo con una testata in faccia a palla lontana il tedesco Kienz. La sua anima di lottatore di strada ogni tanto emerge, la sua sete di rivincita tracima e lo trascina oltre il limite. Così questa sera, all'Olympia Stadion, Zizou sfida il mondo, la tensione e il più bravo portiere del mondiale, Gigi Buffon, con un pallonetto rischioso e beffardo. E gli va bene. Anche qui ha mi fatto sembrava, il cucchiaio. Mi sembrava corretto, vediamo. Gol netto. Ho deciso di calciare in quel modo in un lampo. Conoscevo molto bene Gigi Buffon e sapevo che non si sarebbe mai aspettato un tiro di quel tipo. Beh, mi è andata bene. L'aria dell'Olympia Stadion, però, quella sera è molto particolare. Si respira una strana atmosfera, come se il destino avesse apparecchiato una trama sottile e bizzarra, studiata per capovolgere le proporzioni tra le leggende e i semplici buoni giocatori. L'eroe della serata, si comincia a capire, non sarà Zinedine Zidane, ma l'uomo che lo marca ossessivamente e che al 20° del primo tempo abbandona la stretta sorveglianza del campione francese per salire in area di rigore. C'è un calcio d'angolo e Marco Materazzi è un gran colpitore di testa. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo. Il corner di Andrea Pirlo è meraviglioso. La palla gira nell'aria, scavalca tutta la difesa transalpina, scende all'improvviso. Ad impattare il pallone nel posto giusto con un tempismo perfetto, con uno stacco spettacolare, c'è proprio Materazzi. Pallone arriva! La palla si insacca. Materazzi corre, incredulo, felice. Ha segnato un gol fondamentale in una finale mondiale. Lui, che avrebbe dovuto guardare Nesta dalla panchina. Marco corre, veloce, e in quei secondi il pensiero vola, alto, altissimo. Tutti capiscono dove e si commuovono, come conferma il compagno di squadra Gennaro Gattuso. Molto bello per come Marco esulta, perché ringrazia la mamma che non c'è più da tanto tempo. Molto bello. Era una giustizia divina, perché io ho commesso anche diversi errori nella mia vita calcistica, li ho sempre pagati, però vengo sempre additato come quello, è lui, è sempre lui, e forse in quello stacco, in quella elevazione, qualcosa mi ha portato a colpire la palla così in alto. Sì, l'ho dedicata a mia madre, è la prima cosa che mi è venuta in mente, perché ho sentito in quel momento che qualcuno, come la partita precedente, ma si è spinto. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Il mondo ha iniziato a capovolgersi. 1-1 e palla al centro, si ricomincia. Quello che succede dopo ha i contorni di una battaglia tutt'altro che spettacolare. Una battaglia in cui l'Italia sembra prevalere nel primo tempo, ma va spegnendosi nel secondo. La Francia sale, trascinata da Henry. Zidane arranca. La marcatura di Materazzi è asfissiante. Quando finalmente se ne libera, Cannavaro non perdona. Tuttavia, il genio algerino, verso la fine dei 90, comincia a dimostrare la sua classe. Si va ai supplementari. Elizondo controlla il cronometro e dice che basta così, ci saranno due tempi supplementari. Iniziano i supplementari, la Francia domina, ma non segna. Buffon è strepitoso, Cannavaro regge l'urto, Materazzi usa le buone, le cattive su Zidane. Se ne va il primo tempo supplementare, si avvicina alla lotteria dei rigori, dove tutto può succedere. Zizou sente la storia sfuggire dalle sue mani per finire in quelle del caso. È nervoso. Materazzi non gli dà tregua. Al minuto 111 Zidane tenta di sorprendere Buffon, ma non aggancia un passaggio di Malouda. Il traversone termina sul fondo. Il replay mostra come Marco Materazzi l'abbia contenuto trattenendolo leggermente per la maglietta. Nulla di plateale, ma Zidane, esasperato, gli si rivolge in maniera sarcastica. Vuoi la mia maglietta? A fine partita te la darò, dice il francese. Preferisco la puttana di tua sorella, risponde il difensore dell'Inter. Gli italiani sono da guardaline. C'è stata una gomitata, dice Buffon. C'è stata una gomitata di Trezeguet, dice Buffon. Le immagini in diretta mostrano un accenno di rissa. I giocatori italiani sono intorno a Zidane e all'arbitro. Materazzi è a terra, non si comprende bene cosa sia successo, fino a quando la regia tedesca mostra al mondo il replay dell'accaduto. Vediamo un po'. No! Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane! Il replay svela un gesto di una violenza inaudita. Con una testata in pieno petto, Zizou abbatte Marco Materazzi. Lo prende sullo sterno, con tutta la sua forza, rischiando conseguenze ben più gravi. Le immagini vengono mostrate anche al quarto uomo, che segnala all'arbitro l'accaduto. È il primo caso di moviola in campo. Una forzatura delle regole, davanti a un gesto così eclatante, per evitare polemiche più gravi. Con un lampo di follia, Zidane macchia un'intera carriera e ne rovina il finale. I suoi sogni di gloria vanno in pezzi. Paradossalmente, da quel momento, si completa il momento di gloria di Marco Materazzi. La Francia in 10 non graffia più. I supplementari si trascinano verso la conclusione in un'atmosfera surreale. Si va ai rigori, ma l'handicap psicologico della Francia è pesantissimo. Per il terzo rigore azzurro, Materazzi va sul dischetto. Perché il suo destino cambi definitivamente, devono accadere due cose. Il suo rigore deve entrare e l'Italia deve vincere. Così Matrix sarà l'eroe del mondiale. Sì! Due! Forte a incrociare. Molto bravo Materazzi. Marco ha segnato. L'errore dagli 11 metri di David Trezeguet, proprio il giustiziere degli azzurri nella finale europea di 6 anni prima, manda gli azzurri al match ball. Perché si decida il mondiale, si deve attendere l'ultimo rigore. Dagli 11 metri va Fabio Grosso. L'Italia è campione del mondo. Marco Materazzi, uno degli eroi della squadra di Lippi. Zinedine Zidane, il grande sconfitto. In tutti i sensi. Da quella sera i loro ruoli non saranno più gli stessi. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. Destini incrociati. Destini incrociati è a Berlino, il 9 luglio 2006. Sul prato dell'Olympiastadion, l'Italia di Lippi sta festeggiando la conquista della Coppa del Mondo. Marco Materazzi è il grande eroe della serata. Ha siglato il pareggio con un bellissimo colpo di testa. Ha neutralizzato Zidane. L'ha fatto espellere con provocazioni decisamente fuori luogo. Ha realizzato il suo rigore nella lotteria finale dagli 11 metri. Negli spogliatoi, già da una mezz'ora, c'è un uomo che ha un umore completamente diverso. Non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane, che se ne va giustamente. Sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Sotto la doccia Zidane ci va anzitempo, alle 22:13 per l'esattezza, quando i suoi compagni sono ancora sul campo a lottare per il titolo mondiale. Sotto quella doccia, probabilmente, insieme all'acqua, scorre anche un fiume di ricordi e di pensieri cupi. Il secondo mondiale, il pallone d'oro, la chiusura della carriera come campione del mondo, tutto va sfumando. Rimane invece quella conclusione indegna di una carriera straordinaria. Zidane sarà ricordato anche come quello che ha chiuso la carriera con una testata in una finale mondiale. La ferita appena aperta brucia tantissimo. Ha detto cose davvero difficili da sentire per un uomo. Le senti una volta e provi ad allontanarti. Una seconda e fai finta di niente. Ma alla terza non ci ho visto più. Le polemiche divorano la vita mediatica dei due calciatori. Si apre la caccia alle parole realmente dette da Materazzi. Insulto razzista? Pesanti allusioni sessuali? Per settimane, i talk show danno risalto alla questione, spettacolarizzando il fatto. Proliferano addirittura videogame su internet con cui si può impersonare Zidane e prendere a testate Materazzi. Tutto contribuisce a gettare sale sulla ferita del giocatore francese. La FIFA, intanto, salomonicamente, infligge 2 giornate di squalifica a Materazzi per gli insulti e le provocazioni a Zidane. 3 al francese, mai scontate, dato il suo ritiro. Una decisione in ogni caso poco equilibrata e poco esemplare. Il 2006-2007 per Materazzi, sull'onda del trionfo mondiale, è forse la miglior stagione. L'Inter, priva di avversari veri per lo scandalo di Calciopoli, stravince il campionato. Marco è uno dei migliori difensori del torneo e mette a segno anche 10 reti, di cui 2 nella partita decisiva in casa contro il Siena. In nazionale, soprattutto dopo l'addio di Alessandro Nesta, diventa titolare inamovibile. Insomma, da brutto anatroccolo, il mondiale tedesco e l'incrocio con Zizou hanno trasformato Marco in un campione del mondo. Agli europei del 2008, Materazzi parte ancora una volta in seconda fila. Durante l'anno, un terribile infortunio alla coscia l'ha tenuto lontano dai campi per mesi. Il suo posto in nazionale è stato preso da Andrea Barzagli, che fa coppia con l'inossidabile Cannavaro. Durante il ritiro prima dell'esordio europeo, Giorgio Chiellini tocca duro Cannavaro in allenamento e lo mette KO. Marco è di nuovo chiamato in prima linea dal nuovo CT, Roberto Donadoni. Purtroppo la buona stella di Marco sta tramontando. Lui e Barzagli incappano in una serata tremenda e vengono derisi dagli attaccanti olandesi che ne fanno 3. Tutta la difesa viene messa sul banco degli imputati e spazzata via dal match successivo. Il posto di Materazzi viene preso da Chiellini, la sua avventura azzurra di fatto si chiude qui. Zidane, invece, ha provato a più riprese a lavare la macchia di quel gesto. Dopo averne rivendicato la legittimità, dati gli insulti di Materazzi, Zizou è tornato sulle sue posizioni, arrivando persino a scusarsi con il giocatore italiano. Un incontro con stretta di mano tra i due è stato sempre ipotizzato dai vari network televisivi e mai realizzato. È stato giusto che Buffon abbia avvisato l'arbitro per segnalargli quello che avevo fatto, perché non era bello. Non era affatto bello. Onestamente non so come avrei potuto vivere se la mia Francia si fosse laureata campione del mondo e io fossi rimasto sul terreno di gioco. L'avrei vissuta male, questo è certo. Soprattutto perché quella sarebbe stata la mia ultima immagine da calciatore in attività. Sarebbe stato molto difficile vivere con un titolo da campione del mondo ottenuto dopo quello che era successo. Per il resto, il campione francese si è dedicato alle sue fondazioni benefiche, alle sue scuole di calcio, per poi entrare nello staff dirigenziale del Real Madrid. Chi ha avuto la fortuna di allenarlo o di vederlo giocare, al Real come in altre squadre, lo ritiene uno dei più forti giocatori di sempre. È il caso di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori vincenti per definizione. Sì, perché? Il giocatore più estetico, da un punto di vista estetico è sicuramente il più bravo. Dal punto di vista di efficacia ce ne sono stati altri. Zidane è stato un ragazzo, un giocatore molto bravo, molto umile, che però poteva essere più incisivo, più decisivo. Insomma, non era uno che non faceva tanti gol, però le sue giocate erano, spalmava col piede come spalmare il burro. Al Santiago Bernabéu ora Zidane vede esibirsi dalla tribuna campionissimi come Cristiano Ronaldo e Kakà. Per me è un grande stimolo poter parlare con Zidane, avere consigli da lui. Il mio sogno è quello di fare per il Real quello che ha fatto lui. Come dice Kakà, Zizou è anche il loro consigliere, una guida preziosa per il nuovo corso del Real Madrid. Probabilmente, quando parla con la nuova generazione dei Galattici e rievoca quell'episodio di Berlino, Zinedine ha una luce particolare negli occhi, un lampo di malinconia impossibile da cancellare. Per i nuovi pupilli del Real, quello sguardo malinconico vale più di 1000 consigli su come gestire il futuro della propria carriera. Nella speranza di avvicinare quella di Zinedine Zidane al Gerino di Marsiglia, il fenomeno che con le Roi Platini condivide il titolo di più grande calciatore francese di tutti i tempi. Car mes joies aujourd'hui.